E siamo in collegamento con Francesco Petruzzelli per parlare, visto che ne è autore e regista, dello spettacolo Box Family dal 19 al 21 di gennaio allo Spazio Diamante, dove già era stato in scena e aveva anche ottenuto un riconoscimento. Francesco, benvenuto al Radioteatro su Onda Rossa. Grazie mille, grazie di avermi qui. Partecipava a questo tuo lavoro, a questo vostro lavoro, ad un festival. Sì, Vox Family ha partecipato al festival In Divenire, organizzato da Giampiero Voluto, da Giampiero Ciccio e da Alessandro Longobardi. E niente, nonostante le nostre speranze, non avevamo di divertirci, poi ovviamente di vincere, non pensavamo mai che ci sarebbe piovuta addosso questa grandine di premi, e invece siamo stati molto contenti di poter trasformare questo progetto in spettacolo vero e proprio. Bene. Francesco, ci racconti un po' di cosa si tratta? Dunque, il testo che scrissi alla tenera età di 22 anni parla del rapporto malato, diciamo così, disfunzionale tra una mamma e il figlio tredicenne, il cui problema principale è che questa madre è assolutamente convinta, ossessionata dall'idea che il figlio debba mostrare una qualche genialità, un qualche talento straordinario e quindi precoce in una qualsiasi attività oppure in tutto quello in cui si cimenta, scusate. Però il ragazzino è irrimediabilmente mediocre, così ci viene presentato, fino a che a un certo punto la maestra del ragazzino non si presenta a casa della madre portando con sé un test di intelligenza che hanno fatto fare al piccolo Astro, così si chiama il protagonista, che mostra un punteggio stellare. E quindi a quel punto bisogna capire se il ragazzino mente, se è veramente un genio incompreso, se appunto è un genio che lo tiene nascosto alla famiglia, oppure se è stato un caso fortuito, se il test è falso, eccetera eccetera eccetera. Non dico di più per non togliere la sorpresa ai fortunatissimi che verranno a vederlo. Senti, a 22 anni hai scritto questo lavoro, come ti era nata l'idea? Allora, l'idea è nata in realtà da un'osservazione. Io sono sempre stata una persona molto curiosa, fin da bambino tra l'altro, e mi è sempre piaciuto osservare la realtà a me circostante. Sì. E quindi in realtà a 22 anni ho dato voce, o meglio ho messo per iscritto una osservazione che avevo fatto da fin dalle elementari, non so come dire, di una realtà che mi circondava fin dalle elementari, ovvero di mamme, genitori ossessionati da questo desiderio che i figli dimostrassero di essere dei geni, una cosa che credo abbia caratterizzato i genitori della mia generazione, e da cui fortunatamente mi sono salvato, quindi potevo osservare questa realtà senza esserne vittima, ma soltanto testimone. E per questo mi ha incuriosito moltissimo, vedendo soprattutto gli effetti che aveva sui miei compagni e sui miei coetanei. Senti, poi come ci hai lavorato sopra, intanto come hai coinvolto gli altri che lavorano con te? Allora, gli altri in realtà sono membri insieme a me di un'associazione a delinquere, che è quella degli ex studenti dell'Accademia, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Io ho conosciuto l'intero cast composto da Carlotta Mangione, vincitrice del premio In Divenire come miglior attrice protagonista, Michele Lisi, Roberta Azzarone, Lorenzo Parrotto, Luigi Biava, Cristina Pellice e Cristina Poccardi. Dicevo, ho incontrato tutte queste persone durante il triennio o poco dopo il triennio di studi all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che ogni anno organizza dagli studenti la possibilità di organizzare un festival teatrale completamente autogestito. Quindi io, che sono un attore, lavoro come attore, in Accademia ho avuto la possibilità di sperimentarmi anche sulla scrittura, coinvolgendo appunto delle ignare vittime come i miei compagni di classe o altri compagni di Accademia di altri corsi. E siccome ci è piaciuta tanto l'esperienza, e siccome Box Family, che era il terzo testo che avevo scritto per l'Accademia, non vide mai la luce, perché poi Luca Ronconi mi chiamò a lavorare subito dopo il diploma, quindi non potei portarlo in scena, è rimasto sempre nel cassetto, e quindi a noi è rimasta sempre la voglia poi di farlo, voglia che si è potuta concretizzare soltanto in occasione del premio In Divenire. Perfetto. Senti, questa nuova messa in scena al Teatro Diamante, allo Spazio Diamante? Scusa, questa nuova messa in scena, sì. Sarà, speriamo, noi ci auguriamo, abbiamo fatto tutto il possibile perché ciò avvenisse, molto più raffinata e completa. Questo è lo spirito del Festival in Divenire, che, sì, a cui si presentano dei progetti che appunto poi diverranno degli spettacoli finiti, veri e propri. Dicevo, presenterà un prodotto più completo e con anche scene, un testo lievemente modificato, con delle scene aggiunte che possano dare maggiore risalto e tridimensionalità dei personaggi magari minori, e poi banalmente anche con dei nuovi costumi. Insomma, cerchiamo di, essendo praticamente autoprodotti, cerchiamo di darci, cioè, autoproducendoci, spesso dobbiamo andare a setacciare la sentina dei nostri guardaroba per assemblare i costumi, e questa volta insomma anche servendoci del premio siamo forse riusciti a dare un minimo di coerenza a quello che indossiamo. E poi l'impianto scenico ha avuto dei cambiamenti anche in ragione a delle discorsi e riflessioni fatte con gli attori. Io credo molto nel contributo degli attori al lavoro che fanno, non mi sento, siccome non sono un regista di elezione ma mi sono ritrovato a dirigere, io odierei trattare gli attori come delle semplici marionette. Ho bisogno anzi di avere nuove idee che provengano innanzitutto da chi il lavoro lo fa sulla propria, lo sperimenta sulla propria pelle. E con questo spirito speriamo di aver, anzi siamo sicuri di aver ottenuto un buon risultato, che mostreremo il 19, il 20 e il 21 gennaio, 19 e 20 alle 21, 21 gennaio alle 18 allo Spazio Diamante, via Prenestina 230. Senti, sì, ci sono già delle tappe fissate per il percorso di questo lavoro? No, non ancora, ma siamo molto fiduciosi che ciò accada. Adesso ci stiamo proponendo in giro e comunque prima di correre bisogna camminare, quindi ci muoviamo passo passo, sì, vediamo, sì, come va questa, come si conclude questa avventura, e poi pensiamo alla prossima. Bene, allora ci hai ricordato l'appuntamento, a questo punto ci dai anche i riferimenti web, se c'è un sito internet, una pagina Facebook o altro. Allora, trovate sicuramente tutto quello che, di cui avete bisogno riguardo all'evento sulla pagina Facebook appunto dell'evento stesso, Vox Family Reloaded, perché dopo la presentazione del progetto Vox Family quel titolo non era più utilizzabile, quindi Vox Family Reloaded. E poi sul sito della Sala Umberto trovate tutte le informazioni, e c'è anche una rassegna stampa molto folta su Leggo, Trova Roma. Basta digitare Vox Family su internet e verrete invasi di informazioni. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie mille, un abbraccio a voi e crepi il lupo. O viva il lupo, a viva il lupo, come si vuole dire. Ciao Francesco. Ciao. Ciao, grazie. Ciao ciao.